Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a parlare di grafene stasera, il materiale forse più studiato al mondo in questo momento. Come sapete si tratta di un foglio formato da un singolo strato di atomi di carbonio disposti a nido d'ape. Scoperto pochi anni fa, il grafene è il materiale più sottile creato dall'uomo e ha una serie di straordinarie proprietà fisiche, chimiche e anche meccaniche che oggi si sta imparando come utilizzare. Tra i settori in cui ci si attendono più progressi c'è quello dell'elettronica, dove ridurre le dimensioni dei componenti significa poter fare dispositivi più potenti e veloci, e dove quindi un materiale super sottile e capace di condurre gli elettroni come il grafene è una vera manna. Prima però è necessario superare parecchi problemi pratici prima di usarlo. Ecco perché stasera vi parliamo di una ricerca condotta al sincrotrone Elettra di Trieste all'interno di Area Science Park che ha superato uno degli ostacoli più importanti. Diamo il benvenuto ad Alessandro Baraldi. Buonasera Baraldi. Buonasera a voi. Professore di fisica della materia presso appunto l'Università degli Studi di Trieste, responsabile del laboratorio di scienze delle superfici del sincrotrone Elettra. Ecco, parliamo di una ricerca pubblicata su Nature Communication, nata dalla tesi di un vostro dottorando che si chiama Luca Omicciuolo e appunto coordinata da lei. Allora Baraldi, qual è il problema con cui vi siete dovuti confrontare e avete superato? Il problema principale è quello di poter accoppiare il grafene a dei materiali che non siano dei materiali conduttori, degli isolanti, e creare quelli che si chiamano dei sandwich fatti apposta, appunto prodotti a base di grafene. Come vengono sviluppati questi materiali? Il grafene viene in generale cresciuto su delle superfici di rame ad alta temperatura utilizzando degli idrocarburi, le molecole si dissociano, lasciano il carbonio e il grafene qui si forma. E poi il grafene viene trasferito con dei processi di etching chimico. Il problema principale, cioè bisogna sostanzialmente staccare questo foglio di grafene da questa base di rame che è un metallo e non serve a niente il grafene appiccicato al pezzo di metallo. Lo dobbiamo appoggiare su un isolante, semiconduttore. E il problema è qui, è staccare questo foglio. Come per si fa questo, attualmente? Si utilizzano dei processi chimici. Acidi, ricopre il grafene con materiali polimerici, poi degli acidi per rimuovere il metallo e quindi il grafene poi viene trasferito con dei processi di trasferimento meccanico sulla base che gli interessa. E cosa c'era che non andava in questo processo? Quello che non va è che in questi tipi di processi utilizzati anche a livello industriale il grafene viene contaminato dalle molecole di composti chimici che vengono utilizzati e anche la sua struttura cristallina bidimensionale ne viene alterata con la formazione di difetti. Ogni tanto buchi. Un atomo di carbonio viene rimosso. Cioè insomma viene maltrattato in modo terribile, il risultato è che alla fine questo grafene non ha più le proprietà che ci servono. Non possiede più la conducibilità elettrica che noi desideriamo. Ecco, e voi come avete superato questo problema? L'avete l'idea proprio aggirato? L'idea è quella di ovviare il processo di trasferimento utilizzando un'altra strategia. Che non richiede il trasferimento, è proprio questo. Assolutamente, questa è l'idea fondamentale. Quindi abbiamo utilizzato una lega di un materiale bimetallico. A base di alluminio, su questo tramite sempre deposizioni di vapori chimici abbiamo cresciuto un grafene di ottima qualità strutturale. E a quel punto quello che siamo riusciti a fare è ossidare in modo selettivo il substrato sul quale era cresciuto il grafene, in questo caso composto anche da alluminio, che si lega agli atomi di ossigeno a formare un'interfaccia molto sottile di allumina. E quindi avete ottenuto questo panino formato da appunto il grafene, l'allumina e l'alluminio, e quindi è fatta? Direi il processo è un processo nel contempo semplice che utilizza materiali anche poco costosi e che porta alla formazione proprio di questa interfaccia molto sottile, poco più di un nanometro, quindi di un miliardesimo di metro, lo spessore della nostra alluminio, che è un componente, è un materiale fondamentale per l'industria elettronica assieme all'ossido di silicio. Ecco, senta, voi lì siete al laboratorio, siete al sincrotrone di Elettra, che ricordiamolo è un piccolo acceleratore di particelle, piccolo ma sempre 80 metri di diametro. Perché avete utilizzato il sincrotrone? Serve un macchinario del genere per attuare questo processo o ci sono altre ragioni? Beh, il processo può essere attuato in modo molto semplice utilizzando altri sistemi sperimentali. Altrimenti, insomma, dal punto di vista pratico servirebbe a poco, no? Assolutamente, questo è un metodo che può essere facilmente applicato dall'industria elettronica, ma ciò che è unico e ha reso possibile lo sviluppo di questa nuova strategia è proprio la caratteristica unica che ci offre la luce di sincrotrone, quella di monitorare in tempo reale ciò che sta accadendo sulla superficie di un metallo, di un semiconduttore o del grafene come nel nostro caso, dei filmati spettroscopici di quello che accade durante il processo e di oscillazione. Vi consente di mettere a punto poi i parametri di un processi di ogni tipo. Senta, quale sarà il prossimo step? Il prossimo step è quello di accoppiare il grafene ad altri materiali bidimensionali che sono altrettanto interessanti ma che hanno caratteristiche diverse, ad esempio sono dei semiconduttori. Grazie, grazie Baraldi. Grazie a voi per l'ospitalità. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.